et mandé quelque la police à la coupa un jour et la veia s'arrange la mandé versi se tour à un comissi dei la ora d'or Giovanni Ardizzone era il sono de meste studenti universitari comunista amis dei proletari all'ancopa vicina al noster dom i giornai dell'età la terra i dell'incastro Kennedy e Khrushchev e del Vosava sia la pace no alla guerra e con la pace in bocca alle mor in via Grossi Pule coi manganel vegni de Padova specializza in dimostrazione antaca con TG un carusel e con tire dan schiscia l'ardi son la gengenda insieme alla vista per la morte giovane studente e viene di rabbia pure fascista usava il mascalzone per fatale incidente.